Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buon anno a tutti da Sebastiano Barisoni. Fino a ieri c'era in conduzione Deborah Rosciani. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che il numero per i vostri sms non è cambiato ed è 349-238-6666. I temi, dicevo, allora resta il gas, o meglio gli scontri tra Ucraina, Kiev e Mosca, Russia, in tema di forniture, ma le ripercussioni, soprattutto le ripercussioni per i paesi europei. Tranquillità per ora, le riserve ci sono, ma i rischi e le criticità restano molto forti, e ne parleremo con vari collegamenti sia da Mosca che con l'Italia. Ancora l'altro tema è Alitalia. Più che Alitalia, ormai la vicenda è chiusa, la maggior parte degli osservatori danno per scontata la scelta di Air France. La scelta definitiva verrà pronunciata solo e comunicata solo il prossimo venerdì 9. Però anche qui il tema, più che all'Italia, si chiama Malpensa. Che cosa fare di Malpensa? Qual è il rapporto tra Malpensa e Linate? E soprattutto, è vero che se venissero liberati alcuni slot, come si chiamano in gergo, alcuni accordi bilaterali, questo permetterebbe a Malpensa di vivere, ossia di fatto, detto brutalmente, di utilizzare un'altra compagnia aerea, nel caso specifico probabilmente Lufthansa, per diventare appunto e restare un hub, un aeroporto di snodo del nord. Chiaro è che questa ipotesi però non piace ai nuovi proprietari di Alitalia, ai soci della CAI, perché vorrebbe dire per Alitalia avere un concorrente in casa. Ecco, diciamo, ecco, sono questi i due paletti su cui si muove il tema di Malpensa: come mantenerla in vita senza però danneggiare i soci che hanno appena acquisito Alitalia. Ancora parleremo di distretti industriali e soprattutto degli effetti di questa crisi. Perché? Perché oggi da un lato è arrivata una notizia che non fa certo piacere: l'aumento della cassa integrazione a dicembre è stato drammatico, praticamente il 110% dell'industria, nell'edilizia, in più rispetto a dicembre del 2007. Questo per quello che riguarda la cassa integrazione nel mese di dicembre. Del 24% l'aumento complessivo della cassa integrazione nel 2008. Tra l'altro anche gennaio non sembra andare molto meglio. A fronte di questo dato c'è un rapporto che è stato pubblicato anche sul Sole 24 Ore, fatto dal Sole 24 Ore e dal gruppo Intesa San Paolo, sui distretti industriali, perché sembrerebbe, dai dati alla mano, che proprio i distretti industriali italiani, che sono stati il motore dello sviluppo del nostro export in questi anni, siano quelli a soffrire maggiormente da questa crisi di carattere, oltre che finanziario, a questo punto tranquillamente economico. 349-238-6666, dicevamo, per gli sms. I mercati, dopo un avvio tutto sommato positivo, oggi prevalgono i realizzi: meno 1% l'S&P MIB, meno 1,2% il MIBTEL. Parigi meno 2% come Francoforte, il 3,5% lo perde Londra, male l'America, meno 1,8%, qui c'è un dato sulla disoccupazione che preoccupa e non poco, meno 2,1% il Nasdaq. L'euro sul dollaro è sempre sotto quota 1,40, è 1,36,77, così come l'euro si è indebolito e resta a 90 pence nei confronti della sterlina britannica. Tra i titoli, Pirelli è il peggiore dopo il boom di ieri, meno 7,6%, Saipem meno 3,7% come Tenaris, il 3,3% lo perde Terna, il 3,1% Unicredit, il 2,6% lo perde Mediaset e il 2,3% lo perde Eni. Fastweb e Mondadori meno 2,1%, Finmeccanica meno 2% come Monte dei Paschi. Perdono l'1,9% Snam Rete Gas, l'1,6% sia Telecom che l'Ottomatica che Enel. Chi guadagna? Bene Banco Popolare più 5,7, smentita l'ipotesi di fusione con Ubibanca, guadagna Ubibanca al 5,2, Seat Pagine Gialle più 4,6, Buzzi Unicem più 1,8, Italcementi più 1,1, Luxottica più 1%. E adesso, come sempre, rapidamente le notizie in breve. E quindi oggi, oltre che di Malpensa, del gas e della cassa integrazione, dei problemi dei distretti industriali, le notizie riguardano da un lato la Germania, sempre sul tema degli effetti, anzi di come combattere gli effetti della crisi economico-finanziaria. Secondo il Financial Times Deutschland, il governo guidato da Angela Merkel starebbe pensando alla creazione di un ombrello di salvataggio per le aziende che hanno difficoltà di accedere al credito bancario. A questo proposito, il governo tedesco starebbe predisponendo in sostanza 100 miliardi di euro di ombrello a cui potrebbero rivolgersi tutte le imprese che non riescono a ottenere questi soldi sul mercato bancario. Ancora, il numero dei senza lavoro, sempre in Germania, è salito a dicembre per la prima volta in 34 mesi di 18.000 unità. Il tasso di disoccupazione in Germania resta però stabile al 7,6%. Dall'America, si diceva, il dato ufficiale del Dipartimento del Lavoro sarà reso noto solo venerdì, però le prime stime diffuse parlano di una perdita di posti di lavoro pari a 693.000 persone, un dato peggiore rispetto alle attese che stimavano una perdita di posti di lavoro intorno ai 515.000. E continua la raffica, purtroppo, il bollettino di chi taglia posti di lavoro. Alcoa, che è il più grande produttore di alluminio al mondo, ha annunciato la chiusura di alcuni stabilimenti, la vendita di asset e la riduzione del 50% delle spese in conto capitale, assieme all'eliminazione di 15.000 posti di lavoro. Anche Marks & Spencer, famosa catena britannica di distribuzione alimentare, ma non solo, ha annunciato il licenziamento di 1.230 dipendenti e la chiusura di 27 negozi dopo aver riportato nell'ultima trimestrale i dati peggiori degli ultimi 10 anni. Alcune trimestrali, alcuni di voi già ci chiedono il petrolio, avete ragione, non ho dato il petrolio è a 47,9. In realtà, più che la crisi medio orientale e la tensione russo-ucraina, pesano anche alcuni dati macroeconomici sul fabbisogno, che saranno resi noti però nei prossimi giorni. Certo che il rigore climatico che sta attraversando anche l'Europa, oltre che gli Stati Uniti, spinge la speculazione sul petrolio, che si era riportato, come ricorderete, ieri a 50 dollari al barile, oggi a 47,9, ma diciamo, mentre la temperatura e il freddo, così come la crisi tra Russia e Ucraina, dovrebbero essere elementi momentanei, i dati macroeconomici daranno la tendenza sul fabbisogno. Ecco perché i mercati attendono questi ultimi. La buona notizia anche oggi si chiama Euribor, è sceso al 2,76%, il tasso interbancario, quindi il costo del denaro che usano le banche per prestarsi soldi, è calcolato a 3 mesi. Siamo ai minimi dal 27 marzo del 2006, vedremo poi se si muoveranno nello stesso modo anche i mutui bancari, ma insomma il 2,76% è un livello che non si vedeva da quasi 3 anni. Alcuni dati societari: Intel riduce del 23% le stime del fatturato nel quarto trimestre, perché si è, ha spiegato Intel, che si è ulteriormente indebolita la domanda per nuovi microprocessori, mentre Time Warner chiude il quarto trimestre in rosso e deve operare svalutazioni, colosso insomma, nel settore cinematografico, svalutazioni per 25 miliardi di dollari. Il deficit dei conti pubblici americani arriverà nel 2009 alla somma record di 1.186 miliardi, poi scenderà a 703 miliardi nel 2010. e 10. Queste le stime del Dipartimento del Congresso americano, che prevede anche un calo del PIL americano del 2,2% nel 2009 e un balzo del tasso di disoccupazione oltre il 9% entro i primi mesi del 2010. Importante a questo punto sarà sentire cosa il nuovo presidente Barack Obama dirà in tema di economia il prossimo 20 gennaio. Dicevamo della cassa integrazione e del boom, ne parleremo tra circa mezz'ora. Per quello che riguarda l'Italia Malpensa, si è svolto nel primo mattino di oggi a Palazzo Chigi l'incontro tra i vertici dell'Italia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. Nella sede del governo è arrivato anche Roberto Colaninno. Slittato invece, ma per motivi dovuti al maltempo, l'incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il leader della Lega, nonché Ministro per le Riforme Umberto Bossi. La riunione potrebbe essere riconvocata già domani. Va bene, questi i temi e le notizie principali. Adesso partiamo con il nostro primo approfondimento, che riguarda l'ennesima guerra del gas. Alcuni di voi si ricorderanno che già a gennaio, nello stesso periodo del 2006, tornammo in diretta con Focus Economia proprio per lo stesso motivo. Nel gennaio 2006 Gazprom tagliò per alcuni giorni le forniture all'Ucraina e di conseguenza all'Europa, accusando Kiev di prelevare illegalmente il gas destinato all'Europa. Anche in quell'occasione, in quell'occasione, a monte del contenzioso c'erano pagamenti delle forniture e prezzo del gas che Gazprom voleva alzare da 50 a 230 dollari. Dopo due anni ci risiamo. Ci risiamo perché l'Ucraina ha sinora ripagato 1,5 miliardi sui 2 miliardi di debiti di dollari, stiamo parlando, che ha verso Gazprom, ma rifiuta di versare le sanzioni per il ritardo nei pagamenti accumulati, e invece su questo Gazprom è irremovibile. Ma non ci sono solo le sanzioni per il ritardo nei pagamenti, ci sono anche i nuovi prezzi. Non è un mistero che la Russia sia stata messa in ginocchio dalla crisi finanziaria e economica, che Gazprom abbia avuto un grosso problema finanziario perché molti fondi privati sono scappati, o meglio avevano problemi in casa americana e sono usciti dalle partecipazioni in Gazprom. Quindi ha bisogno di liquidità, ha bisogno di soldi e chiede all'Ucraina di pagare di più il gas che gli dà. Chiede di pagare 250 dollari ogni 1000 metri cubi di gas, invece Kiev risponde di essere disposto a pagarne al massimo 201 dollari. Attualmente ne paga Kiev 180. Ora, non è solo Gazprom a essere stata messa in ginocchio e l'intera Russia a essere in grande difficoltà per la crisi finanziaria, visto che i capitali sono fuggiti, più che altro non ci sono più molti capitali in giro e nemmeno i fondi hanno così voglia di investire in Russia. Anche l'Ucraina è stata messa in ginocchio della crisi e tra l'altro ha ottenuto, dopo una forte richiesta, un prestito dal Fondo Monetario Internazionale da 16 miliardi di dollari. Poi su questo elemento, cioè la fame di denaro, si salda anche un altro aspetto che è più politico, anzi strettamente di geopolitica. I rapporti tra Ucraina e Russia non sono buoni, la Russia appoggiava il candidato sconfitto alle elezioni ucraine, per di più la Russia non ha mai apprezzato il fatto che l'Ucraina abbia appoggiato la Georgia durante il conflitto della scorsa estate tra Russia e Georgia. Questo, diciamo, riguarda la situazione internazionale. Il problema è che la maggior parte l'80% del gas russo che noi utilizziamo passa dall'Ucraina, il restante 20% passa dalla Bielorussia. Noi come Italia abbiamo un 30% di dipendenza da Mosca, perché importiamo anche il gas algerino e poi anche dall'Olanda ci arriva il gas. ci sono paesi messi peggio di noi, la Slovacchia al 100%, come la Bulgaria, la Grecia all'80%, la Turchia al 60%. L'Ungheria e l'Austria hanno 60%, la Germania dipende molto più di noi dal gas russo per il 40%, ma insomma il 30% è tanto, e comunque dei 550 miliardi di metri cubi di gas che l'Europa consuma ogni anno, 440 vengono importati e 120, diciamo, arrivano dalla Russia, per cui in media possiamo dire che circa il 25% di tutto il gas europeo arriva dalla Russia, e di questo il 20%, cioè l'80%, ossia il 20% di tutto il gas, passa attraverso l'Ucraina. Noi personalmente abbiamo un fabbisogno di 85 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il 16% lo produciamo, ripetiamo, l'84% arriva dall'estero. Se il 30% arriva dalla Russia, anche un altro 33% arriva dall'Algeria, e poi il restante 40% arriva da Olanda, Norvegia e Libia. Le riserve, al centro delle polemiche di 2 anni fa, 8 i siti utilizzati dalla Stogit, Brugheri, Settala, Corte Maggiore, Collalto, Sernano, Ripalta, Minerbio, Sabbioncello, Fiume, Trieste. Le riserve complessive in questo momento sono intorno ai 7 miliardi di metri cubi, 6,8 miliardi di metri cubi. Oltre a questi ci sono 5 miliardi di metri cubi di riserve strategiche. Secondo l'ENI, in caso di blocco totale delle forniture russe, possiamo andare avanti fino a febbraio. Non mi chiedete se inizio febbraio o fine febbraio, perché non arriviamo così là, lo richiederemo Alleni. Allora, saluto e ringrazio i nostri ospiti. In collegamento da Mosca, Vladimir Sapochnikov, corrispondente anche per il Sole 24 Ore per Radio 24. Buonasera. Buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Jacopo Giliberto, collega del Sole 24 Ore, che spesso e sovente si occupa dei temi dell'energia. Buonasera anche a te, Jacopo. Buonasera anche a Volodya Sapochnikov e a tutti gli ascoltatori. E grazie e buon anno anche a voi. Chiaramente grazie anche al direttore delle ricerche, degli studi, l'Istituto Bruno Leoni di Torino, professor Carlo Stagnaro, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Vladimir, intanto aggiornaci sul braccio di ferro Ucraina, tra Kiev e Mosca. Qualche sviluppo? È vero che l'Ucraina ha proposto a questo punto 225 dollari su una richiesta di 250 dollari ogni 1000 metri cubi di gas? Sì, è vero, è una nuova proposta arrivata da Kiev, però l'ultima notizia che è arrivata proprio pochissimi minuti fa, che alle 18.30 ora di Mosca, 16.30 ora di Milano, Gazprom ha bloccato completamente le forniture di gas destinato all'Europa. Hanno controllato la situazione e hanno scoperto ancora una volta che il gas destinato all'Europa viene fermato sul territorio dell'Ucraina, dopodiché è stata presa questa decisione drastica, dopo una serie di tagli, di bloccare completamente il flusso di gas destinato all'Europa. Domani questa situazione naturalmente verrà discussa a Bruxelles dal presidente di Gazprom Alexei Miller, che porterà ai rappresentanti dell'Unione Europea tutti i documenti, compreso il famoso contratto che riguarda il transito di gas russo attraverso il territorio ucraino, per spiegare la posizione russa. Intanto sono attesi a Mosca i rappresentanti di Naftogaz Ucraina, la società energetica dell'Ucraina, che dovranno presentare formalmente questa nuova proposta del prezzo. Allora, non ci hai dato una buona notizia. Tra l'altro, poco fa, un'ora fa, anche il Presidente della Commissione Europea, José Barroso, aveva ammonito sia la Russia che l'Ucraina all'Ucraina a riprendere immediatamente le forniture di gas. Aveva detto Barroso, lo stop è inammissibile. E appunto ricordando che domani l'Unione Europea discuterà sull'invio di una missione di esperti sul posto. Tra l'altro, e anche gli Stati Uniti hanno espresso una posizione a favore dell'Europa, si sono detti d'accordo con l'Unione Europea nel giudicare inaccettabile la situazione attuale. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha infine detto di ritenere totalmente inaccettabile l'interruzione delle forniture. Ti chiedo però, Vladimir, il problema è veramente solo di soldi, di denaro, di pagamenti, o In qualche modo Medvedev, il presidente russo, alias Vladimir Putin, vuole farla pagare a Timoshenko per l'appoggio dato alla Georgia e per, insomma, per il fatto che la Timoshenko ha vinto quando non era il candidato russo. Ma naturalmente il problema è molto complicato e comprende tutti questi aspetti, compreso il sostegno dell'Ucraina, del presidente ucraino Viktor Yushchenko, che aveva dato alla Georgia durante il conflitto, durante la guerra tra Russia e la Georgia per l'Ossetia del Sud. Naturalmente c'è anche il problema delle cosiddette vie alternative. Sappiamo che Gazprom con BASF e con E.ON stanno costruendo il cosiddetto Nord Stream, il gasdotto del Mar Baltico, che da nord dovrà girare il territorio dell'Ucraina per portare il gas russo nel 2011 alla Germania e in un secondo momento anche all'Inghilterra. Poi c'è il maxi progetto tra Gazprom e l'ENI, South Stream, il gasdotto intercontinentale tra la Russia e i paesi del sud europeo, che dovrà passare per il Mar Nero per portare ancora del gas russo ai paesi dell'Europa del Sud, ai paesi dell'Europa centrale, l'Austria, l'Italia anche. Naturalmente tutti questi piani di Gazprom non possono non preoccupare l'Ucraina, che rischia di perdere la sua posizione strategica per quanto riguarda il transito di gas russo. Naturalmente questa situazione è molto complicata, sta incidendo moltissimo sui colloqui tra Gazprom e l'Ucraina. Sì, devo dire che insomma, se la posizione ucraina deve essere quella di poi ricattare o usare il passaggio del gas come elemento per contrattare il prezzo, beh, non mi sembra così corretto, anche perché poi le conseguenze le sta pagando l'Europa e nel caso specifico anche l'Italia, che pure, ripeto, non è il paese più dipendente di quelli europei dal gas russo. Grazie Vladimir Sapochnikov, grazie per averci aggiornato con una notizia che non volevamo avere, ma che comunque è una notizia, ossia il blocco totale del passaggio di gas. Vladimir, sei ancora in linea? Forse sì, ci sono. Sì. No, perché alcuni ascoltatori ci chiedono, ma operativamente come fanno a prelevare il gas? Non so se sia tu la persona più corretta a cui chiederlo dall'Ucraina. Cioè, lo devono nelle loro condotte? Sì, praticamente si tratta di un vecchio problema che risale ancora ai tempi sovietici, perché il sistema di gasdotti ai tempi sovietici, prima della rottura dell'Unione Sovietica nel 1991, era un sistema unico, tutti i gasdotti erano uniti tra di loro, anche quelli destinati all'export, gasdotti interni dell'Ucraina che è collegata ai super magazzini sotterranei che si trovano nelle vecchie miniere abbandonate, dove l'Ucraina ha la possibilità fisica di pompare decine se non centinaia di miliardi di metri cubi di gas ogni anno, e naturalmente il gas che passa per il territorio dell'Ucraina può tranquillamente essere deviato nel sistema di gasdotti interno di questa Repubblica ex sovietica per poi immagazzinato nelle riserve dell'Ucraina. Cioè la vecchia rete dell'Unione Sovietica è rimasta intatta e quindi è molto facile poi smistarlo e portarlo a riserva. Grazie definitivamente Vladimir Sapochnikov. Allora, Jacopo Giliberto, poi arriviamo al professor Stagnaro, che in un articolo apparso il 2 di gennaio sul Foglio ha detto, insomma, attenzione, quest'anno Gazprom fa meno paura all'Europa. Quanto rischia l'Italia, quanto riserve? I dati prima li fornivo, insomma, l'ENI ha detto fino a febbraio, non ho capito se inizio o fine febbraio, insomma, anche con un blocco totale ci arriviamo. Volendo essere pessimisti, sì, i primi di febbraio mi sembra ragionevole, un ottimismo ci fa sperare anche. Molto dipende dal clima ovviamente, perché quando nevica, nonostante le apparenze, il clima non è così freddo, siamo attorno allo zero. E qui al nord Italia in questi giorni sta nevicando, non è un clima rigidissimo. Se dovesse scendere ampiamente sotto lo zero, come succede spesso in gennaio, 4-5 gradi sotto zero in pianura, vorrebbe già significa che è un aumento della domanda per il riscaldamento non solo delle case, ma anche degli stabilimenti industriali per la produzione di calore industriale e per la produzione di corrente elettrica. Noi dipendiamo fortemente dal gas nella produzione di corrente elettrica. È vero. E quindi potrebbe addirittura abbreviarsi il periodo di autonomia. Noi abbiamo una decina di stoccaggi, 8 del gruppo Eni e un paio del gruppo Edison. Una decina di stoccaggi che ci danno una buona autonomia. Siamo forse il paese che ha la maggiore quantità di stoccaggi. Che cosa sono? Sono dei vecchi giacimenti di gas ormai esauriti, votati, che vengono riutilizzati. Sono impermeabili, assolutamente sicuri nel sottosuolo ed è già infrastrutturati, hanno già i tubi, i compressori e così via, e sono comodissimi per rimetterci dentro quel gas che anni fa vi era stato tolto per la prima volta. Allora, su questo quindi dipenderà dal clima. Certo che abbiamo già avuto l'astrologa per le previsioni sulla borsa, adesso avremo anche il meteorologo per le previsioni sull'energia. Insomma, va bene così. Ma è una battuta, perché insomma, l'astrologa sembra uno scherzo, ma è così. Capire se sarà un gennaio o febbraio mite oppure molto rigido ci può aiutare a capire come andranno le riserve. Sentiamo su questo cosa ha dichiarato questa mattina nel corso del nostro GR Extra Large a Paolo Piacenza il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Siamo molto dipendenti dalla Russia per scelte miopi di questo paese, per cui se qualcuno ci chiude il rubinetto andiamo in difficoltà. Però è vero due cose. La prima, che l'inverno è stato mite fino a una settimana fa, i consumi sono stati ridotti e noi abbiamo in Italia delle riserve molto significative di gas. Secondo, con un decreto abbiamo massimificato la provenienza di gas, in particolare dal Nord Europa e dalla Algeria, per cui riusciamo ad avere un'autonomia significativa anche senza il gas russo di provenienza ucraina. Evidentemente questo dipende poi da due fattori: quali saranno i consumi italiani e quanto durerà la crisi Russia-Ucraina. Sui consumi italiani dobbiamo dire che al momento non sono particolarmente significativi e quindi le scorte dovrebbero durare un periodo sufficiente a darci tranquillità. Nel contempo noi non siamo con le mani in mano, c'è un contratto con la Russia per avere il gas e noi pretendiamo che il contratto venga onorato. E quindi la trattativa russa-ucraina potrà durare ancora qualche giorno, qualche settimana, ma non potrà che sfociare con la consistente ripresa del flusso di gas verso l'Italia. Così il ministro Scajola questa mattina, ora di pranzo, alle 13, non sapeva ancora quanto ci ha appena ricordato Vladimir Sapochnikov, ossia che da circa due ore Gazprom ha bloccato tutte le forniture di gas all'Europa. Direttore Stagnaro, lei dirige il centro di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leone di Torino, ha scritto cinque giorni fa, questa volta Gazprom fa meno paura all'Europa. Dopo la notizia che ci ha dato in diretta Vladimir Sapochnikov, che comunque tutte le forniture di gas sono state interrotte verso l'Europa, è ancora di questa idea? E se sì, perché? Sì, sono ancora di questa idea per le ragioni che venivano ricordate prima, cioè che gli stoccaggi nella maggior parte d'Europa e sicuramente in Italia sono abbondanti e per il fatto che a causa della crisi economica e della recessione, che di per sé non è evidentemente una buona notizia, i consumi quest'inverno sono ridotti rispetto all'inverno precedente e rispetto in particolare all'inverno del 2006, nonostante le temperature molto rigide. Quindi da questo punto di vista io non credo che ci sia un problema immediato. Lo stesso ministro Scajola dice possiamo arrivare tranquillamente fino a febbraio e quindi ci sta anche dicendo guardate che c'è un problema, ma non c'è un'emergenza, non c'è un'urgenza, non c'è comunque la stessa emergenza e la stessa urgenza che c'è stata in precedenza. Questo non toglie che non sia né piacevole né come dire, tollerabile nel lungo termine che ogni anno o un anno ogni due le forniture di gas russo all'Europa vengano messe a repentaglio, in discussione per motivi sostanzialmente analoghi, cioè dispute sui prezzi che nascondono dispute politico-geopolitiche, che nascondono come dire, il gioco delle alleanze internazionali di due paesi che sono cruciali, uno per la fornitura, la vendita del gas e l'altro per il suo transito nei confronti dell'Europa. E questo mi pare il problema più serio, cioè io non ho paura che nei prossimi giorni l'Italia o l'Europa, se non in alcuni casi molto rilevanti ma locali, restino senza gas o senza elettricità. Ho paura dell'instabilità che anno dopo anno si crea per il venirsi a generare di questo genere di scontri e di crisi, e per il fatto che, come dire, noi già siamo pronti a rivedere la stessa scena l'anno prossimo o l'anno successivo, ed è questo secondo me l'aspetto, come dire, sia politicamente sia economicamente, perché evidentemente ha un impatto nel modo in cui gli attori economici si rapportano di fronte all'acquisto e al consumo di gas può generare. E mi scusi, per inciso, visto che noi europei lo paghiamo $420 ogni 1000 metri cubi sto gas, e gli ucraini lo pagano 200, 180, 200, forse 250, siamo noi che lo paghiamo troppo o loro troppo poco? Beh, io sarei tentato di risponderle che sia noi che loro lo paghiamo il giusto, nel senso che il prezzo giusto è sempre il prezzo che il compratore è disposto a pagare, a cui il venditore è disposto a vendere. È ovvio che i prezzi di vendita del gas sono ancorati a contratti di lungo termine che hanno dei meccanismi diversi e che seguono logiche non sempre lineare. L'Europa è un cliente puramente commerciale per la Russia, l'Ucraina è o almeno è stato un cliente con un interesse anche politico che ha portato nel passato a fare degli scontri che oggi vengono messi in discussione. Va pure detto che, poiché il prezzo di vendita del gas è ancorato, è indicizzato al prezzo di un paniere di prodotti petroliferi nei mesi precedenti, anche noi europei vedremo ridursi il prezzo di vendita del gas russo nei prossimi mesi, perché rifletterà il calo del prezzo del petrolio. Del petrolio che c'è stata da dopo l'estate. E proprio su questo avrei un'ultima domanda per lei, professor Stagnaro. Si dice che in realtà, oltre che le tensioni tra Mosca e Kiev, sullo sfondo ci sia la crisi profonda in cui è caduta Gazprom. Cioè Gazprom ha preso una tale sberla in borsa e come capitalizzazione che nell'arco di un anno ha perso quasi il 70% del suo valore. Addirittura c'è chi dice che ormai è scontato un salvataggio dello Stato russo su Gazprom, che è incredibile, perché questa dovrebbe essere la miniera russa, visto che è il primo produttore di gas al mondo. Non ho ancora capito come abbia fatto a ficcarsi in tutti questi debiti, ma comunque non è che sotto sotto si cerca di far pagare all'Europa e agli europei il disastro finanziario in cui è scivolata Gazprom? Ma in parte sicuramente sì. Gazprom si trova in questa situazione perché è stata costretta ad agire come braccio politico del Cremlino da tanti punti di vista, cioè a vendere gas a prezzi scontati ai paesi satelliti, tanto più scontati quanto più questi paesi si comportavano da vassalli. La Bielorussia, che 2 anni fa è stata protagonista di uno scontro analogo, se non ricordo male, pagava all'epoca il gas attorno ai $50 per 1000 metri cubi, che era un'inezia rispetto ai prezzi internazionali in quel momento, sia rispetto alle politiche interne. Il gas per il consumo interno russo è sostanzialmente una commodity quasi gratuita, anche se le cose stanno lentamente cambiando. La Russia ha assegnato a Gazprom, in qualche maniera, così come altri paesi produttori hanno assegnato alle rispettive aziende di Stato, il ruolo di fare da Stato sociale, tra virgolette, e oggi se ne stanno pagando le conseguenze. Va detto che la Russia ha creato, come hanno fatto anche altri paesi, un fondo di stabilizzazione interno in cui ha accumulato l'extra rendita petrolifera, per così chiamarla. La domanda di fondo è quanto durerà la stagione dei prezzi bassi, nel senso che se la stagione dei prezzi bassi del petrolio e quindi del gas finirà presto, allora le cose riprenderanno e Gazprom si salverà. se la stagione dei prezzi bassi durerà ancora a lungo, cioè se la recessione durerà ancora a lungo, non sarà tanto Gazprom a crollare quanto l'equilibrio del sistema russo, che si regge su questa fontana dei quattrini che viene utilizzata per mantenere, tra virgolette, la pace sociale. Quindi quella mi sembra la domanda. La loro cassa integrazione, diciamo, o ammortizzatore sociale, si chiama Gazprom. Ed è importante, quanto lei ricordava, più andrà avanti questa crisi, più possibilità ci sono che anche Gazprom salti per aria, oppure che non riesca più a reggere questi prezzi sociali all'interno del mercato russo e per i paesi amici. Grazie al direttore dell'Istituto Bruno Leoni di Torino, Carlo Stagnaro. Jacopo Giliberto, per concludere sulla parte nostra, per non ritrovarci fra 2 anni o l'anno prossimo nella stessa situazione, quali sono le soluzioni? Torniamo a parlare di rigassificatori? Naturalmente è sì. Ovvio, non poteva mancare il tema, se no è come il panettone a Natale, no? Ogni volta che arriva il tema dell'energia torna il rigassificatore. Vai, Jacopo. No, c'è un elemento rincuorante: il fatto che già 8 miliardi di metri cubi stanno per arrivare via rigassificatore di Rovigo Portoviro, che in fase di allestimento è stato posato in settembre al largo del Delta del Po. Questo enorme impianto della ExxonMobil con Qatar Petroleum e con l'italiana Edison è in fase di allestimento e di completamento, adesso sono in raffreddamento le grandi cisterne criogeniche e tra qualche mese comincerà a importare via nave 8 miliardi di metri cubi in più. E poi ci sono altri progetti, un gasdotto dalla Grecia, il famoso gasdotto Galsi che dovrebbe arrivare dall'Algeria alla Sardegna e poi alla Toscana e così via. Molti progetti di rigassificatori, soprattutto nel Mezzogiorno, quindi in qualche anno, anche se non tutti gli impianti riusciranno a essere realizzati, sicuramente in qualche mese avremo un salvagente in più al largo del Delta del Po, appunto questo nuovo rigassificatore, e poi nel giro di qualche anno avremo diversi nuovi impianti che ci permettono quella flessibilità, quell'arbitraggio, quel mettere in gioco più attori nello stesso momento in modo da essere più flessibili e poter giocare più partite commerciali al tempo stesso. Per inciso, Brindisi è ancora sotto sequestro? Oh mamma, è ancora fermo. Brindisi è un impianto. Passa da un sequestro all'altro, Brindisi. È sconfortante quella vicenda. Sono ormai una decina d'anni che la British Gas tenta di costruire un rigassificatore, è arrivato a fare la grande spianata nella rada di Brindisi e poi i sigilli della magistratura. Ora, noi non sappiamo chi abbia ragione, certo che poi ci si chiede perché gli investitori stranieri non vengono in Italia. Vabbè, grazie Jacopo Giliberto. Vedo che l'invito ad avere, oltre che l'astrologa, anche il meteorologo per parlare di economia e finanza riscuote successo. Vedremo, tornerà l'astrologa, tanto abbiamo capito che più o meno ci becca come gli analisti, forse anche di più, e comunque costa meno. Al di là della battuta, i mercati finanziari: meno 0,88% Mibtel, meno 0,6% S&P Mib, Parigi meno 1,5%, Francoforte meno 1,8%, Londra meno 3,16%, l'America perde 1,5% in questo momento sul Dow Jones e l'1,7% sul Nasdaq. Borse che sono peggiorate dopo i dati sulla disoccupazione americana che ricordavamo in apertura. Attenzione, i dati ufficiali usciranno venerdì, quella di oggi è una stima, ma è una stima brutta, quasi 700.000 posti di lavoro in meno nel mese di dicembre negli Stati Uniti, contro i 500.000 attesi. Comunque, buon anno Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore. Buon anno a te Sebastiano, a tutti gli ascoltatori. Partiamo dal caso di borsa. Nonostante la smentita con un comunicato ufficiale, il mercato scommette che Banco Popolare, ossia ciò che erano la Banca Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare di Lodi, ex poi Banca Popolare Italiana, si fonderà con UbiBanca. Più 6,9% Banco Popolare, più 6,7% UbiBanca, i due primi titoli del mercato. Sì, l'anno è iniziato quindi con le voci di nuove aggregazioni nel settore bancario. È finito con le voci, è iniziato con le voci. Esatto. Diciamo. E, per quanto riguarda UBI e Banco Popolare, tu hai riassunto bene la situazione, bisogna dire la verità, su Banco Popolare pesano anche altre indiscrezioni su cui peraltro non abbiamo raccolto conferme, cioè quella di un ritorno al dialogo tra Italease e i tedeschi di DZ Bank dopo la trattativa saltata circa un mese fa, un'indiscrezione che per parte della seduta ha sostenuto anche il titolo Italease, che è controllata, che ha come prima azionista Banco Popolare, ma certamente il rialzo di oggi tanto di Banco Popolare quanto di UBI Banca è stato condotto da queste voci che ritornano ormai ogni poco di aggregazione tra questi due istituti, che ancora una volta sono affrettati a dire che non esiste alcun progetto di aggregazione e questo comunque non è bastato per frenare i titoli, che hanno concluso con rialzi ben superiori al 6% e hanno permesso peraltro a Milano di limitare i danni rispetto all'andamento delle altre borse europee. Infatti abbiamo visto che Milano ha perso la metà quasi rispetto alle altre borse europee. Chissà se anche nel mondo della finanza vale la regola del giornalismo che una smentita è una notizia data due volte. Andiamo avanti su chi ha più perso invece. Pirelli meno 8% quasi, 7,9%. Ieri un boom vero e proprio per il titolo, oggi immagino realizzi. Adesso ce la commenti. Terna meno 3,90%, Saipem meno 3,8%, Fastub meno 3,2%. Pirelli e Terna. Sì. Per quanto riguarda Pirelli, certamente i realizzi dopo l'exploit messo a segno ieri con un guadagno superiore al 22% per il titolo, i realizzi appunto erano piuttosto scontati, qualche analista ha appunto giustificato solo in parte l'euforia di ieri con attese di matricolazioni migliori delle aspettative nel 2009, anche con il recente rimbalzo della controllata Pirelli del settore immobiliare Pirelli Real Estate. Diciamo che un'euforia che era derivata anche dall'attesa della presentazione del nuovo piano industriale, che peraltro insomma non sarà reso noto prima di febbraio, quindi la speculazione di ieri è presto rientrata e si è allargata con il peggioramento dei listini su cui ha pesato l'andamento di Wall Street, l'andamento dei dati americani che tu già ricordavi, ecco perché il titolo ha perso quasi l'8%. Per quanto riguarda gli altri titoli che ricordavi, il segno meno più pesante è arrivato dal settore energetico, così sotto i riflettori in questi giorni per la crisi del gas, ma anche per la correzione che c'è stata oggi dei prezzi del petrolio, soprattutto dopo la pubblicazione delle scorte americane che sono state notevolmente superiori alle attese. Ne ha fatto le spese in particolare Saipem, che ha perso il 3,9%, anche perché colpita da alcune valutazioni da parte degli analisti, in particolare quelli di Equitas SIM, che hanno tagliato le stime sugli utili 2009-2010, ma ne ha pagato le conseguenze anche Terna, anche Snam Rete Gas, anche Eni, che ha perso l'1,6%. E questo infatti è un calo generalizzato a tutti i titoli energetici. Tra chi è andato male anche Monte dei Paschi meno 2,7%, Unicredito meno 2,5%, Mondadori e Mediaset meno 2,7%, ancora Fastweb ha perso il 3,3%, Finmeccanica il 2,1%, Lottomatica e Snam l'1,80%, come Telecom e poi poco altro, Prismian meno 1%, Espresso meno 1,1%, Fiat meno 0,4%. Tra chi è andato bene, Seat più 4,3%, Buzzi Unicem più 3%, Luxottica più 1,7, Talcementi più 1,6, Stima Microelectronics più 1,3, Fondiaria più 1,2, Unipol più 1%, e poi lo 0,70% il rialzo di Bulgari, Mediolanum, Mediobanca, Intesa San Paolo e Alleanza Assicurazioni. Banca Popolare Italiana più 0,6 e Banca Popolare di Milano, scusatemi, più 0,6, Generali più 0,3%. Una battuta su ST Microelectronics e Seat, scusami. Sì, per Per quanto riguarda Seat, ieri non aveva saputo sfruttare il buon andamento dei listini, oggi il titolo è stato ben comprato, l'attesa è dopo la comunicazione prima di Natale dei nuovi accordi sulle condizioni dei finanziamenti, dei debiti con Royal Bank of Scotland, sui nuovi su quale sarà quali saranno le caratteristiche dell'aumento di capitale che la società si appresta a varare, che aumento di capitale da circa 200 milioni di euro, mentre per quanto riguarda ST Microelectronics una giornata piuttosto volatile che poi si è conclusa bene. Questa mattina le indiscrezioni sul rialzo dei prezzi di alcuni tipi di semiconduttori che spingevano la tedesca Infineon sostenevano anche il titolo ST Microelectronics, che è stato poi invece frenato per quanto dopo che Intel, il colosso americano dei microchip, ha comunicato una riduzione nelle stime sul fatturato del quarto trimestre. Questo ha frenato il titolo, che però poi ha chiuso in buon rialzo, comunque con un più 1,27%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Migliori e peggiori in assoluto, basta oggi più 24%, e poi Snia meno 12,2%, Everett Group meno 17,3%. Quando è venuta l'astrologa a fare le previsioni di borsa, ci chiedete? Il 12 novembre, ma tornerà assieme al meteorologo a questo punto, visto che per la borsa bisogna sentire gli astri e per energia bisogna sentire il meteo. Adesso però parliamo di distretti industriali. Ne parliamo perché la crisi da finanziaria e economica morde tutta l'economia, però secondo quanto emerge dall'ultimo numero di monitor dei distretti del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo e in collaborazione con il Sole 24 Ore, morde di più i distretti industriali. Secondo rapporto, infatti, il bilancio delle esportazioni dei nostri distretti avrebbe chiuso il 2008 con un calo non inferiore al 5%, ossia l'andamento peggiore dal 1990 ad oggi. E questo mentre complessivamente l'industria italiana ha avuto un calo molto molto più contenuto, lo 0,6%. Questo anche per alcune difficoltà rilevate sempre da Intesa San Paolo e Prometeia nelle capacità di autofinanziamento delle imprese italiane, tant'è che nel 2009 le nostre imprese avranno bisogno di 6 miliardi di euro in più per poter funzionare a parità di condizioni. Il tutto nel giorno in cui in Germania si sta studiando un ombrello di salvataggio per le imprese che non riescono a ricorrere al mercato bancario da 100 miliardi di euro, questo piano di Angela Merkel, e nel giorno in cui scopriamo che a dicembre la cassa integrazione è aumentata del 110% rispetto al dicembre del 2007, nella sola industria più 130%, lo ha riferito lo stesso ministro del welfare Maurizio Sacconi. Allora ringrazio per essere in collegamento con noi chi ha curato il rapporto per Intesa San Paolo, rapporto monitor, dottor Fabrizio Guelpa, buonasera. Buonasera. Abbiamo 30 secondi scarsi e poi la riprendiamo dopo il nostro GR. Una prima risposta flash: come mai i distretti peggio o subiscono di più rispetto all'industria in generale? Beh, perché i distretti sono fortissimamente legati alle esportazioni, hanno quote di mercato molto elevate praticamente in tutti i settori, nel momento in cui la congiuntura si fa negativa ne soffrono di più, proprio perché riescono a coprire le fasce di mercato meno solide, hanno questa fortissima capacità di entrare anche su nicchie di mercato, e questo in questo momento sta penalizzando gran parte dei distretti. Allora, dottor Guelpa, lei ci spiegava che i distretti, proprio perché lavorano e hanno una maggiore flessibilità su alcune nicchie di mercato, se ho ben capito, sono quelli che soffrono di più. In sostanza, il motivo per cui c'è stato un calo del 5% dal vostro rapporto nelle esportazioni rispetto a una media dei settori dello 0,6%, detto in altri termini, è dovuto a quali caratteristiche dei distretti rispetto all'industria tradizionale? Beh, storicamente i distretti sono sempre stati più ciclici sul fronte delle esportazioni, quindi quando la congiuntura andava bene andavano molto più veloci rispetto ai non distretti, e in questo momento che le cose vanno male sono invece sul fronte dei perdenti, e queste sono proprio caratteristiche del tipo di produzione che vengono fatte, della competitività delle imprese, che è basata su fattori che gli permette di andare su tantissimi mercati. Una delle proprio novità negative di questo momento è che il numero di distretti che si trovano in difficoltà è aumentato molto. Attualmente noi monitoriamo 103 distretti, il 62% di questi distretti nel terzo trimestre 2008, che è l'ultimo sul quale ci sono dati Istat, è in rosso. Ha avuto particolare difficoltà, e questa è una novità negativa, la meccanica fino al secondo trimestre di quest'anno, del 2008, era riuscita ad andare bene, nel terzo decisamente crollata con un meno 10%. Questo è un dato fortemente negativo in sé, e anche per il peso che la meccanica ha sull'industria nel suo complesso. Un altro aspetto negativo è che ci si sposta sul quarto trimestre, sul quale non abbiamo ancora dati relativamente distretti, ma abbiamo soltanto dati a livello nazionale che si fermano a novembre, ma si può in qualche modo estrapolare questa tendenza nazionale sui principali distretti italiani. Fino al terzo trimestre alcuni mercati in particolare avevano resistito e questi stanno crollando, mi riferisco in particolare alla Russia, che sta soffrendo dei problemi del prezzo del petrolio, che è crollato, come sappiamo. Una storia simile si ha con i paesi OPEC, verso Russia e paesi OPEC, che c'era una fortissima dinamica dell'export, adesso non c'è più, e una storia simile si ha sul fronte degli altri paesi dell'Europa centro-orientale, quindi anche su questo fronte le cose si stanno mettendo male. Dottor Cuoco, visto che stiamo commentando oggi però anche il dato record diffuso dal ministro Welfare Sacconi dell'aumento della cassa integrazione a dicembre, più 110%, addirittura l'industria più 130% di ricorso alla cassa integrazione rispetto al dicembre 2007, con un 24% complessivo di aumento della cassa integrazione in tutto il 2008, ma c'è da immaginare che se dicembre è andato così, gennaio non andrà molto meglio. Le chiedo, questo si ripercuote anche, o l'avete verificato anche nella vostra ricerca, e se sì, voi stessi con un altro studio avete dimostrato che c'è anche una difficoltà di reperire denaro, cioè l'autofinanziamento è in difficoltà. Possiamo tenere assieme i due elementi? Dati a livello territoriale sulla cassa integrazione purtroppo sono molto vecchi, l'INPS li rilascia con un forte ritardo. Comunque possiamo immaginare che la crisi sia molto, molto diffusa. Su questo rapporto avevamo dei dati sulla cassa integrazione ancora a luglio, e si vedono quali erano le principali aree di difficoltà, che sono diciamo molto collegate alle difficoltà dell'estero, quindi delle difficoltà ci sono. Vogliamo diciamo spostarci un pochino in avanti e vedere quali possono essere le prospettive dei prossimi mesi. Ovviamente il 2009 sarà un anno difficile, però paradossalmente dobbiamo tenere conto che le imprese italiane sono entrate in recessione partendo da una posizione abbastanza di forza. Ancora nel 2007 le quote di mercato a livello internazionale sono aumentate, questi sono gli ultimi dati che abbiamo. Possiamo immaginare che anche nel 2008, visto la dinamica dell'export, sia tenuto sul fronte delle quote di mercato, e i margini operativi delle aziende ancora 2007, qui sono ancora gli ultimi che abbiamo per il complesso dell'industria, sono cresciuti, quindi si è entrati in recessione, in una posizione di debolezza. Bisogna vedere come se ne esce. La crisi secondo me dipende molto dalla domanda, quindi non è una crisi di debolezza delle nostre imprese, è una crisi di domanda. Non bisognerà aspettare però che la domanda ricominci a crescere per conto suo, bisogna investire molto sul fronte della competitività, quindi affrontare quei nodi competitivi che ci trasciniamo ormai da un po' di anni. Ecco, veniamo a questo, fermo restando che il bisogno di liquidità è un bisogno dovuto il fatto che le banche hanno chiuso in alcuni casi i rubinetti, ma anche al fatto che c'è un ritardo nei pagamenti, dovuto, come sempre in questi casi, a una crisi generalizzata, la Germania sta lanciando un piano da 100 miliardi di ombrello a tutte le imprese tedesche che non riuscissero a ottenere i finanziamenti dalle banche o da altri canali. C'è un ritardo, ripeto, nei pagamenti per le imprese italiane. Secondo lei su quali elementi dovremmo giocare? Ma, questo è credo che sia un pezzo della storia. Dobbiamo verificare che tipo di margine ci consentono i conti pubblici. Sicuramente ben difficilmente lo Stato italiano potrà permettersi 100 miliardi di sostegno, quindi io rimbalzerei l'onere di darsi da fare sul mondo delle imprese, che sicuramente hanno fatto molto, ma per quello che riguarda, diciamo, sì, gli stretti, ma direi anche le imprese in generale, devono affrontare alcuni aspetti importanti, alcune sfide. Una sicuramente riguarda le competenze, le competenze dentro l'azienda, che sono sempre più meno sul fronte produttivo, ma sempre più sul fronte marketing, ICT, ricerca, e da questo punto di vista le cose da fare sono ancora moltissime. Il mondo della scuola e chiaramente dell'università deve fornire una quantità di personale più qualificato di quanto fa adesso, e crea anche una sfida interna alle aziende, perché vuol dire spostare un modello, modificare un modello in cui una volta si faceva competenza, si costruiva le competenze dentro le aziende, adesso è sempre più probabile che deve essere fatto fuori. Questa è una cosa sicuramente importante. No, ma è chiaro il ragionamento, cioè, vari elementi compongono lo scenario: il credito che deve essere erogato alle banche, i pagamenti in ritardo, anche quelli della pubblica amministrazione, e poi una capacità delle imprese comunque di reggere perlomeno il 2009 e, per quello che riguarda lo Stato, conti pubblici permettendo, anche forse indirizzare qualche risorsa in più, magari sotto forma di credito d'imposta, di agevolazione fiscale, non dico soldi in contanti, alle imprese, in modo da aiutarle a traghettare quest'anno difficile di una crisi che oggettivamente non hanno creato loro. Grazie comunque al curatore della ricerca fatta dal Centro da Servizio Studi di Ricerca di Intesa San Paolo e dal Sole 24 Ore, Fabrizio Guelpa. Di nuovo in diretta, allora sentiamo che cosa ha detto poco fa Barack Obama, presidente eletto, eletto presidente degli Stati Uniti, in tema di crisi economico e finanziaria e del piano che si appresta a annunciare dal 20 gennaio in poi. We're going to be inheriting a trillion plus dollar deficit. Noi erediteremo un aumento di deficit di un trilione di dollari, e se non facciamo niente gli Stati Uniti continueranno a dover gestire un deficit di bilancio superiore ai 1.000 miliardi di dollari per molti anni a venire. Allo stesso tempo la situazione economica è severa. Il piano di rilancio, con la creazione di 3 milioni di posti di lavoro, sarà costoso. Nel breve termine probabilmente vedremo aumentare il deficit. We will actually see potentially additions to the deficit. We are working currently on our budget plans. Stiamo ancora lavorando sul nostro piano, stiamo iniziando le consultazioni con i membri del Congresso su come affrontare il nodo del deficit, e mi aspetto che avremo maggiori dettagli a febbraio. Questo Barack Obama nel giorno in cui dall'America arriva la notizia che probabilmente il dato sarà solo comunicato venerdì, e i disoccupati a dicembre hanno toccato, anzi chi ha perso il posto di lavoro a dicembre ha toccato la cifra record di quasi 700.000 unità, contro 500.000 attese. Ecco perché è tornato dalla sua settimana bianca un ospite, ahimè, piuttosto frequente in queste puntate di Focus Economia. Barack Obama non è ancora presidente, quindi se lo può beccare anche lui, il nostro gufo. E va bene, speriamo che sia il primo e l'ultimo gufo del 2009, ma la vedo dura. Invece adesso passiamo a un altro tema che non c'entra nulla con l'economia americana e con l'economia internazionale, riguarda una vicenda, ahimè, tutta italiana, ossia Malpensa. Malpensa, Malpensa. Sì, siamo ancora a discutere di Malpensa perché il 13 di gennaio ci sarà il primo volo, dovrebbe essere un Heathrow Milano, il primo volo della nuova compagnia aerea, la fusione tra Alitalia e Air One, ma è tutta aperta la questione di che cosa succederà a Malpensa. È iniziata poco prima delle 18 la riunione a Palazzo Chigi, circa 20 minuti fa. La riunione, dicevo, tra i vertici della CAI, Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, con il Presidente del Consiglio Berlusconi, presente anche il sottosegretario Gianni Letta, che già in mattinata aveva incontrato Colaninno e Sabelli. Slittato invece a causa della neve su Milano, non poteva decollare l'aereo, sembra quasi, insomma, paradossale, ma insomma l'incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro, nonché il leader della Lega, Umberto Bossi. Venerdì 9 gennaio, salvo sorprese veramente veramente clamorose, verrà annunciato il partner internazionale di Alitalia, che sarà Air France. A questo punto, cioè, il rischio è che Malpensa non conti più nulla, a meno che non si sblocchino i cosiddetti accordi bilaterali. Accordi bilaterali, cerchiamo di capire cosa sono, lo facciamo con il professor Ugo Arrigo, che insegna all'Università di Milano Bicocca ed è tra i promotori del centro di ricerca intrauniversitario sull'economia del territorio. Buonasera professore. Buonasera agli ascoltatori. Allora, sentiamo prima alcune dichiarazioni. In primo luogo la Lega, che è quella che su Malpensa sta facendo una battaglia in primo luogo politica, tra l'altro oggi vi sto anche un côté politico, nel senso che il Presidente del Consiglio Berlusconi in un colloquio con il quotidiano Libero ha detto: non vorrei che qualcuno pensasse che la difesa degli interessi del Nord spetti in esclusiva agli amici della Lega, quindi c'è anche un conto politico, ma a noi non interessa, ci interessa quello economico. Allora, Roberto Cota, capogruppo alla Camera della Lega, al microfono al nostro Vincenzo Miglietta sulla difesa di Malpensa. L'opposizione fa polemiche, noi invece vogliamo risolvere i problemi, abbiamo una posizione responsabile, pensiamo che Malpensa debba rimanere un hub perché è fondamentale per l'economia, per lo sviluppo e l'occupazione di tutto il paese. E sempre sul tema, l'opposizione, ossia Antonello Solo, capogruppo del PD alla Camera, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Berlusconi ha sprecato 4 miliardi di denari dei contribuenti per tornare al punto di partenza. E ora, come il gioco dell'oca, ricomincia il litigio dentro la maggioranza su Malpensa. È insopportabile. Credo che questo governo non sia un governo decisionista, è un governo inconcludente. Vabbè, e siamo sempre alla querel politica. Veniamo ai fatti, professor Arrigo. Malpensa, ormai, insomma, l'accordo verrà fatto con Air France. Mi sembra di aver capito, ma mi potrò sbagliare, che l'unica chance, perché Malpensa, che è nata male e è andata anche peggio per tutto un insieme di motivi non sempre dipendenti all'aeroporto stesso, l'unica chance per sopravvivere sia da un lato la riduzione del traffico su Linate, per cui Linate resti un aeroporto, diciamo, city airport, che faccia il Roma-Milano e basta, ma dall'altro che vengano rimessi in discussione gli accordi bilaterali, ossia quegli accordi tra le varie nazioni per regolare il diritto di accesso dei vettori aerei. In sostanza, che a Malpensa venga data la possibilità di avere una sua compagnia aerea di riferimento. Ho capito bene e mi aiuti a capire meglio. Ma diciamo che questa è l'opinione corrente in questi giorni. Io sono d'accordo su una parte, che è la liberalizzazione dei diritti internazionali, e sono in disaccordo sull'altra, che è quella della limitazione di Linate. E in sostanza Malpensa è nata abbastanza male 10 anni fa, ma in realtà perché è stato oggetto di una programmazione a tavolino da parte di responsabili politici che non hanno tenuto in molta considerazione le esigenze del mercato, e le esigenze degli utenti di Linate sono soprattutto quelle di avere un aeroporto che è vicino al centro cittadino, a partire dal quale il centro è raggiungibile facilmente, quindi è un aeroporto che ha la sua funzione. Se lo si limitasse alla sola Roma-Milano, passerebbe dai quasi 10 milioni di passeggeri che ha avuto nello scorso anno, nel 2007, non essendo ancora il 2008 chiuso come dati, essendo il 2008 abbastanza anomalo per via dei problemi di Alitalia, scenderebbe da 10 milioni a circa 2 milioni e mezzo, poco più. e questa non sarebbe una grande, diciamo così, una grande opportunità per SEA, che deve tenere aperto un aeroporto ridotto dei tre quarti del suo traffico. I costi di gestione di Linate non si ridurrebbero ovviamente dei tre quarti, quindi questa avrebbe qualche conseguenza negativa sul bilancio di SEA. E nello stesso tempo bisogna dire che Malpensa va bene se utilizzato per due tipologie di voli, ovviamente i voli a lunga distanza, quelli intercontinentali, quelli per i quali vale la pena prendere un aereo intermedio che dalla nostra città, dalla città in cui abitiamo, ci porta a questo aeroporto dal quale noi poi partiamo verso una destinazione internazionale, il cosiddetto hub, e dall'altro lato potrebbe aver senso se si ampliasse una presenza di compagnie low cost come sta avvenendo di fatto. Ecco, le faccio una domanda però, scusi, perché a me sembra che il nodo critico sia questo. C'è un gruppo di imprenditori che ha appena comprato all'Italia e è chiaro che se in questo momento a Malpensa si dà la possibilità di sbarcare un'altra compagnia aerea o compagnie aeree low cost che fanno concorrenza anche sulle stesse tratte, questi ci rimettono. Cioè non rischia di essere quello il vero ostacolo? Assolutamente, c'è una, diciamo così, una contraddizione, c'è un trade-off tra le esigenze degli azionisti di CAI, che è quella di riequilibrare il bilancio della loro iniziativa il più presto possibile, e quella invece del mercato, che invece è favorito dall'apertura della concorrenza. E noi qui in sostanza dobbiamo scegliere se favorire un operatore che rimane operatore di bandiera con l'insegna tricolore sulle carlinghe degli aerei, oppure se vogliamo privilegiare le esigenze dei passeggeri, ovviamente privilegiare le esigenze dei passeggeri bisogna liberalizzare quanto più possibile. E ovviamente la mia tesi è verso questa seconda direzione. Diciamo che noi siamo sempre dalla parte dei clienti, abbiamo massimo rispetto degli imprenditori che non fanno parte della CAI, però è chiaro che nell'area geografica in cui c'è un terzo del PIL italiano, metà delle importazioni e metà delle esportazioni, forse avere anche un aeroporto che ti porti nel resto del mondo non sarebbe male. E la soluzione potrebbe essere Lufthansa, cioè che Lufthansa trasformi Malpensa nel suo hub o semi-hub, o chiamiamolo così, hubino. Questa secondo me può essere una prospettiva se CAI rimane a Fiumicino e sostanzialmente Air France si sposa con CAI, allora Lufthansa avrebbe interesse secondo me ad approfondire, ad aumentare la sua presenza su Malpensa. Questo secondo me è positivo, è diciamo così, la soluzione che vede più operatori presenti in Italia. Avremo due piccoli hub, un hub secondario di Lufthansa a Malpensa, un hub secondario di Air France a Fiumicino, che avrebbe la denominazione di Alitalia CAI. Questa è la soluzione migliore. Se invece si rovesciasse l'alleanza e quindi CAI venisse persuaso ad allearsi con Lufthansa, secondo me questa soluzione sarebbe inferiore, perché la piccola CAI riporterebbe a Malpensa i suoi pochi voli intercontinentali e avremmo un grande aeroporto con pochissimi voli intercontinentali, quindi secondo me sarebbe un'occasione sprecata. Meglio Alitalia Air France su Fiumicino e poniamo Lufthansa su Malpensa, se ho ben capito il suo ragionamento. Grazie anche professor Ulrigo, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, neve e freddo permettendo. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.